E allora avevamo promesso e ci siamo collegati con la Francia, con Lorenzo Battisti che spesso è stato nei nostri studi per le dirette elettorali. A un certo punto avevamo noi cattivi messo in giro anche la voce che portasse sfortuna perché la sinistra perdeva sempre. Questa è la dimostrazione che in realtà non è colpa tua, Lorenzo, insomma, perché tu adesso non sei nei nostri studi, ma le cose non vanno bene lo stesso. Buonasera. Sì, sì, questa volta non c'entro niente, ho cambiato esatto. paese, quindi non mi si possono dare colpe per esatto. cose che non ho fatto. Esatto, tu sei a Parigi adesso? Sì, io sono a Parigi. Ecco, in realtà devo partire con, devo dire una cosa immediatamente al direttore, perché è successo, sono successi degli episodi veramente incresciosi. A cosa è successo? Io mi sono recato presso le sedi dei principali partiti per seguire i risultati, per capire un po' l'atmosfera che c'era, qualificandomi come giornalista di Radio Fujiko, e nessuno mi ha fatto entrare. Chissà perché. Tutti hanno detto oggi ci sono le elezioni, noi non dire Fujiko, sei a Parigi. Sono rimasto fuori, quindi bisognerà contattare l'ordine dei giornalisti francesi per protestare. Esatto, no, però effettivamente inaccettabile. La lettura potrebbe essere quella di Alfredo, appunto, non hai pronunciato bene Fujiko, devi dire Fujiko. Alla francese. Va bene, può Lorenzo, essere, può essere. Facciamoci seri, aiutaci a capire cosa sta succedendo in Francia dal punto di vista elettorale. Marine Le Pen è davanti? Dunque, guarda, qui in Francia siamo molto più avanti. Adesso tornando seri, diciamo, vi do i risultati veri, nel senso che al di là delle proiezioni che sono già uscite subito alla chiusura delle urne, abbiamo già l'85% dei seggi scrutinati, quindi diventa un risultato ormai abbastanza certo e difficilmente ci saranno stravolgimenti. Come dicevi te, il primo dato che giunge in realtà un po' inaspettato, a dir la verità, è il primo posto di Marine Le Pen, che al momento è data intorno al 24,5, ben davanti 600.000 voti, direi, davanti al secondo, cioè al partito dell'attuale presidente Macron. Perché inaspettato? Perché in realtà si aveva un po' la sensazione negli ultimi tempi che la Le Pen fosse un po' appannata. Era rimasta indietro sul movimento dei gilet gialli, li aveva visti un po' con ostilità negli ultimi tempi, mentre Macron, lanciando un po' di fronte popolare qui in Francia, sembrava in recupero. In realtà non è andata affatto così, a quanto pare. Io non mi aspetto stravolgimenti, quindi mi aspetto che domani mattina Marine Le Pen sia la prima, il primo partito di Francia, chiedendo già lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni. Sì, questo punto l'abbiamo letto anche qua. Che fine ha fatto la France Insoumise? Allora, dunque, diciamo che Italia e Francia si somigliano per tante cose. I cugini francesi hanno resistito un po' meglio di noi. Il secondo dato strano o inaspettato, diciamo, è il boom dei Verdi, che sono al 13. E io ho l'impressione che una parte, adesso ci ragioneremo domani con calma, sono tutte supposizioni, però ho l'impressione che una parte dei voti di Mélenchon siano finiti ai Verdi. Mélenchon è andato molto basso, attualmente è intorno al 6, neanche 6,5, che rispetto al risultato delle presidenziali è meno della metà, se ho fatto bene i conti. Diciamo che a sua discolpa possiamo dire che è un partito che è scarsamente radicato a livello locale e che conta moltissimo sul suo carisma, e quindi dà il meglio in elezioni presidenziali in cui c'è una persona, cioè lui, contro un'altra persona, che sia Macron o la Le Pen. Nel momento in cui questo scontro diretto tra persone viene meno, la France Insoumise perde molto della sua forza. Tu prima facevi riferimento ai gilet gialli, quindi alla fine, nonostante fosse sembrata così un po' appannata, a capitalizzare è stata la Le Pen? Allora, il discorso diciamo che è un po' più complicato. Io da qui ho letto molte cronache, molti pareri provenienti dall'Italia che, per la mia esperienza, non avevano molta relazione con quello che io vivevo qui e col movimento dei gilet gialli che ho visto. In Italia avete avuto molto l'impressione che fosse un movimento fortemente sbilanciato a sinistra e una costola della sinistra, se vogliamo prendere frasi sfortunate passate. In realtà non, e quindi ci si attendeva, se io ho visto molti compagni in Italia che si attendevano un boom un po' della sinistra francese grazie ai gilet gialli. In realtà è un movimento che per il momento è molto, non direi apolitico perché è sbagliato, ma direi apartitico e un po' antipartitico, nel senso che indicano tutto il sistema dei partiti come causa dello stato attuale della Francia e come delle classi popolari in particolare, per cui che sia Mélenchon, che sia Macron, che sia la Le Pen, hanno un po' tutti colpa della situazione attuale. Lorenzo, ti fermo un secondo perché sta parlando Salvini, non me ne volere. Vai. Sentiamo un attimo cosa dice. Che sono rimasti in sospeso. Siamo ancora al telefono con Lorenzo, che l'ho brutalmente interrotto per ascoltare Salvini, e già questo è un affronto. Forse volevi dire qualcosa, sì, Francesca? Volevo dire una cosa, appunto, proprio perché abbiamo in collegamento Lorenzo, perché qui è arrivata appunto la notizia che le due liste dei gilet gialli, Alliance Jaune ed Evolution Citoyenne, hanno ottenuto insieme solo lo 0,5% dei voti, quindi molto meno ovviamente della soglia di sbarramento del 5% prevista. Sì, infatti, un commento su questo? Vero, è tutto vero, però facciamo attenzione, nel senso che io mi aspettavo questo risultato dei gialli. Diciamo che è un movimento che è sul nascere, quindi diciamo che non erano pronti per questa prova elettorale e la grossissima parte del movimento ha rifiutato queste liste. Questo non vuol dire però che in futuro non provino nuovamente, soprattutto se riescono a strutturarsi un po'. Per il momento manca una struttura e manca un gruppo dirigente riconosciuto. È ancora molto orizzontale come movimento, per cui non può avere prove elettorali soddisfacenti. Se mi permettete vi dico anche un paio di cose in realtà sul vicino Belgio, perché magari dà un po' di speranza. Diciamo che non so se è già arrivata in Italia la notizia, ma il Partito dei Lavoratori del Belgio ha eletto per la prima volta dei parlamentari in Europa e sono dei parlamentari di sinistra, a sinistra del PSE, e quindi, come dire, da qualche parte ci sono anche buone notizie che arrivano. Certo, grazie mille Lorenzo. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, buonanotte.